Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Non capisco. Se boicotto i prodotti americani o inglesi per protestare contro i bombardamenti in Iraq, si può essere d'accordo o meno, ma la cosa finisce qui. Se boicotto i prodotti israeliani, invece, sono un antisemita. Francesco. Ma se alle orecchie di Israele l'ONU vale zero, come la mettiamo? Il sangue sui codici a barre è disegnato e quello sui civili palestinesi? Non possiamo continuare a guardare altrove, a lasciare che chi non è antisemita lo diventi. Danilo. Sarebbe ora che iniziassimo a dare un giudizio del comportamento di Israele senza pensare a ciò che quel popolo ha dovuto subire 60 anni fa. Ci sentiamo tutti un po' la coscienza sporca e tendiamo a giustificare atti come quelli di questi giorni che non possono che essere condannati. Alessandro. Boicottare i prodotti provenienti da Israele, quelli con il codice a barre che comincia con 729, è come boicottare il lavoro dei palestinesi. Le due nazioni, Israele e autorità palestinese, sono simbionti in quanto ad economia. Infatti Israele dipende per la maggior parte dalla manodopera palestinese e l'autorità palestinese dipende per la maggior parte dalle forniture israeliane. Boicottare i prodotti israeliani comporta che i lavoratori palestinesi non verranno pagati per il lavoro svolto. La politica interna israeliana è fondamentale per la risoluzione della vicenda. A breve si voterà, scegliendo tra due partiti, Labour e Kadima, pro soluzione di pace con riconfinamento al 1967, e un partito, il Likud, fortemente anti-roadmap. Il Likud è terribilmente in vantaggio nei sondaggi e il fatto che la sinistra italiana non operi su questo piano è a dir poco incredibile, anzi tremendamente coerente con la non politica veltrusconiana. Ho conosciuto molti israeliani e mi sono recato due volte in Israele, dove ho avuto la possibilità di visitare luoghi in genere esclusi agli ordinari pellegrinaggi. Qualunque israeliano di buon senso vi dirà che Israele ha diritto ad esistere, ma che ciò può avvenire solo con la costituzione di uno Stato palestinese all'interno dei confini ante 67. Tutto il resto è opera di chi non vuole tale soluzione e purtroppo si tratta di molti paesi limitrofi e non solo. Concludo constatando tristemente che l'antisemitismo è oggi camuffato da antisionismo. Sentire di un codice numerico accoppiato a un codice a barre mi fa rabbrividire. Sergio Novara. Sono un imprenditore ebreo e volevo far notare che i negozi non sono ebrei. E qui l'unico circonciso sono io. Confondere Israele ed ebrei è la solita strategia antisemita per dissolvere l'attenzione dal punto focale. Perché da Gaza si spara contro Israele, nonostante il ritiro del 2005? Nonostante la strada del dialogo esista dal 93 con gli accordi di Oslo? Quale Stato o governo accetterebbe di fare da bersaglio con la propria popolazione a missili stranieri e nemici? Perché il pietismo occidentale è a senso unico? Perché si confondono azione e reazione? Ah sì! Noi siamo il paese che ha messo alla gogna un carabiniere dopo il G8 di Genova e ha dedicato una stanza del Parlamento al suo assalitore, il povero Giuliani. La pace è dietro l'angolo, ma non lo si può capire se si è strabici. Il percorso è talmente logico e chiaro che non volerlo percorrere è solo per chi è in malafede. Maurizio da Roma. Ma dove sono le manifestazioni di solidarietà da parte dei paesi arabi ricchi? Vedi Arabia Saudita, Kuwait, Oman. Non ci pensano loro ai fratelli musulmani di Gaza? E la Giordania o la Siria? Perché non accolgono i fratelli musulmani profughi? Roberto, Milano. Al di là delle fesserie e delle vergogne, come le bandiere bruciate, le bandiere sventolate e chi vorrebbe forse tornare alle stelle affisse ai vestiti degli ebrei. Mi sembra che Israele e palestinesi rappresentino le due facce di uno stesso tragico fallimento. Da una parte, Israele non sembra avere altro da proporre che la propria forza militare. Dall'altra, i palestinesi sembra non siano capaci d'altro che di eleggere dei terroristi come loro governanti. Dentro questo cerchio resta la storia di due popoli che vivono in guerra da più di mezzo secolo, senza riuscire a trovare un modo, un'occasione, una forma possibile di pace. Schierarsi visceralmente, romanticamente o scelleratamente con l'uno o l'altro, da parte di noi lontani occidentali, mi pare idiota, comunque inutile. Insomma, anche noi parliamo, manifestiamo e gira gira, non abbiamo nulla di utile da dire neppure noi. Ennio. Caro direttore, alla vostra radio avete parlato molto della crisi finanziaria ed economica, ricordando spesso la centralità della persona e ribadendo la necessità di nuove regole. Io frequento da un po' di tempo brutte compagnie, associazioni che si dedicano ad assistere i più poveri, i disadattati, drogati o alcolizzati, senza tetto e senza lavoro, italiani e stranieri, comunitari e non, millantatori e poveri veri. E ogni volta mi viene voglia di alzare il telefono e imprecare contro gli esperti. Non lo faccio perché occorre essere meno impulsivi e così ho pensato di scriverle. Se io frodo o derubo e poi mi scoprono e ci sono le prove della colpevolezza, vengo punito. Ora, se uno froda o deruba migliaia o milioni di persone, dovrebbe essere punito in proporzione, migliaia o milioni di volte, giusto? Qualcuno pensa di sì. Mi sembra che le persone chiamate ad intervenire siano sempre le stesse. Quelle che finora non hanno controllato o provveduto, esperti capaci di chiedere ad altri il cambiamento senza essere loro disponibili a farlo. Già negli anni 70 Dom Helder Camara scriveva e chiedeva a gran voce che gli economisti intervenissero per proporre regole più adatte ad un mondo in forte sviluppo demografico, con risorse squilibrate tra paesi ricchi e poveri, caratterizzato da fraudolente azioni che penalizzano sempre le stesse parti di popolazione. Ad oggi tutto è rimasto quasi immobile, ed anche i nuovi economisti, Sen, Yunus ad esempio, sembrano dibattersi nello stesso stagno, pur con differente sensibilità. Mettere al centro la persona non significa molto. Occorre mettere al centro il comportamento morale di ciascuno di noi. Le brutte compagnie che frequento dicono che non si può ricompensare un manager, per quanto alta sia la sua responsabilità, o una persona dello spettacolo con milioni di euro all'anno. Io non so se ciò sia giusto o sbagliato. So che io non saprei nemmeno come spendere un milione di euro. Forse nelle regole andrebbe scritto che la ricompensa degli azionisti diffusi, i piccoli veri risparmiatori, andrebbe messa al primo posto, magari legando un bonus alla percentuale del dividendo in relazione al tasso di inflazione reale. Forse nelle regole andrebbe sottolineata la responsabilità sociale degli amministratori, evitando di remunerare il capitale sulla base dell'utile dell'azienda, legandolo invece al contributo dato dall'azienda alla crescita dello Stato. Se i miei utili derivano da una riduzione costi per pensionamenti anticipati o cassa integrazione, lo Stato non ha ottenuto un reale beneficio, con conseguente inaccettabile squilibrio per la collettività. Ma forse, invece di discutere, sarebbe sufficiente che chi ha in abbondanza prestasse servizio mezza giornata al mese in uno dei vari centri di assistenza, quelli che accolgono gli affamati, i senza tetto, gli ammalati, e meditasse un po' ogni giorno, non su quanto ha fatto nel proprio lavoro, ma sulla sua crescita morale. Se i giornali, le radio, le TV dedicassero più spazio a dare voce a chi dona beneficenza, a chi quotidianamente opera per aiutare materialmente e psicologicamente il prossimo, già potremmo presentare un modello di vita diverso da quello che i giovani scoprono di solito guardando, sentendo o leggendo i soliti mass media. Aiutare le coscienze è l'obbligo che noi abbiamo verso le future generazioni. È pur vero che anche queste associazioni spesso deludono, operando in concorrenza tra loro anziché in solidarietà. Schopenhauer direbbe che ciò è insito nella natura umana. Non c'è speranza, ma io sono fiducioso. Alessandro. Sono un consulente di 62 anni che gira il mondo. Ho appena dovuto rifare il passaporto, dopo neppure 2 anni, perché avevo già esaurito quasi tutte le pagine disponibili. Ovviamente, oltre al costo del passaporto, ho dovuto allegare, tra l'altro, una marca per concessioni governative per passaporti da 40,29 euro. Questa marca ha validità annuale. Senza di essa non posso recarmi direttamente in un paese dove è richiesto il passaporto. Ovvio che se vado in Cina, via Parigi o Francoforte, posso fare a meno della marca. A parte l'assurdità della cifra 40,29, se avessero fatto 41 avrebbero incassato qualche centesimo in più e io avrei evitato di caricarmi di un inutile centesimo di euro. Mi chiedo perché ci sia tanto strepito per aver richiesto un'analoga marca da bollo anche per un permesso di soggiorno. Non ho assolutamente nulla contro i migranti, dei quali apprezzo l'indispensabile supporto all'economia italiana. Ma perché io devo pagare per farmi concedere il permesso di espatriare e loro non devono pagare per restare in Italia? Allora aboliamo anche la marca per noi. Faccio notare che i visti di ingresso nei paesi in cui mi reco sono raramente gratuiti e di durata illimitata. A proposito dei migranti, perché non si investe per sviluppare industrie di base nei loro paesi? Io credo che così facendo, forse risparmieremo anche un sacco di soldi. Giovanni. Tutta questa neve ha causato e sta causando grossi disagi alla cittadinanza, con costi enormi per l'amministrazione pubblica. La domanda che mi sorge spontanea è questa: perché non utilizzare l'esercito per spalare la neve? Non è forse una missione di pace far vivere meglio i nostri concittadini? Li mandano a migliaia di chilometri di distanza per aiutare popolazioni che indiscutibilmente hanno bisogno. Fanno loro presidiare le città per ragioni di ordine pubblico. Li mandano a Napoli per i problemi legati all'immondizia. E non sono capaci di dar loro una pala ciascuno e far loro pulire i marciapiedi? Aldo Cuneo. Nei primi anni 60, quando facevo l'università, una nevicata a Bologna era una festa per tutti. Per gli studenti universitari, andare a spalare la neve, con una piccola retribuzione da parte del comune, era una forma di sport divertente, che ancora adesso, da professionisti affermati, ricordano con piacere e nostalgia. La parola emergenza era quasi sconosciuta. La si usava per le grandi tragedie, l'alluvione del Polesine, la diga del Vajont. Non sarà che siamo diventati tutti dei fifoni spaventosi con l'aiuto dei titolisti dei giornali che ormai conoscono solo le parole emergenza, tregua, tragedia, incubo? Un poco di coraggio individuale non guasterebbe. Come dice una poesia di Spoon River, ci vuole vita per amare la vita. Laura, anziana realista e non nostalgica. Illustre direttore, a che serve inserire l'indirizzo email sui siti di Camera e Senato se poi, quando li contatto con tanto di nome, cognome e indirizzo per parlare delle problematiche del mio settore, o per ricevere chiarimenti, oppure per avere notizie più dettagliate di quanto stanno discutendo in quel momento, non si degnano, salvo rarissimi casi, di rispondere? Nel mondo contemporaneo della comunicazione, a che pro questa casta ignorante e sorda disprezza così tanto il contatto con la realtà? Bruno. Vorrei sottoporvi una domanda sulla questione quale hub scegliere tra Fiumicino e Malpensa. Ai miei parenti provenienti da San Pietroburgo e diretti a Bergamo, con volo all'Italia in transito a Fiumicino, è capitata questa sventura. Sia in andata che al ritorno le valigie si sono fermate a Fiumicino. Come può un aeroporto internazionale, anzi intercontinentale, incappare così spesso in questi disguidi? Con quali credenziali si candida a diventare l'hub d'Italia? E che immagine di sé dà nel mondo la neonata Alitalia se i servizi di terra sono così scarsi? Per esperienza personale, a Malpensa le cose funzionano molto meglio. Giovanni, da Bergamo. Caro direttore, in questi giorni stiamo assistendo al fagocitamento della nostra scassata compagnia aerea da parte di Air France. Da anni i francesi ci provano in tutti i modi e stavolta sembra proprio che ce la faranno e soprattutto si faranno quattro risate alle nostre spalle. È infatti del tutto evidente che se il trasporto aereo è il vettore più importante per far arrivare turisti, noi stiamo vendendo questo fondamentale strumento al nostro più agguerrito e diretto concorrente, dal punto di vista dell'industria del turismo, la Francia. Con il controllo di Alitalia, Air France evidentemente potrà tenere sotto controllo i flussi del turismo in Italia, sfruttando anzi la PIL che il nostro paese genera, per far passare buona parte dei nostri turisti su Parigi. Che poi l'offerta di Lufthansa sia meno appetibile è a mio avviso la riprova del fatto che gli interessi della Francia siano superiori. La Germania, infatti, non muove capitali all'altezza di Italia e Francia in questo settore, pertanto la sua offerta è ripulita dal conflitto di interessi. Per la stessa ragione, però, a mio avviso, un'offerta di Lufthansa sarà sempre migliore, soprattutto se vista con lungimiranza. Infatti, i minori introiti derivanti da un accordo con i tedeschi sarebbero ricompensati da una maggiore autonomia sulle politiche legate al turismo, senza contare il maggior impiego dell'aeroporto di Malpensa. Maurizio. Caro Maurizio, la vicenda Alitalia è giunta ormai al suo compimento. Ora la sfida è tutta nelle mani dei nuovi azionisti che da domani devono gestire la compagnia secondo le regole dell'efficienza e della concorrenza. Ma la vicenda continua a essere fonte di grandi contrasti e di altrettanto grandi polemiche. Con gli italiani che, come sempre, si dividono in due fazioni, i filo francesi da una parte, i filo tedeschi dall'altra, così come i sostenitori di Fiumicino e quelli di Malpensa. Tutte con molte buone ragioni a sostegno della propria tesi. Anche nel caso Alitalia, ogni scelta ha i suoi pro e i suoi contro, ma bisogna riconoscere che la malattia che ha portato la compagnia all'attuale situazione di agonia è stata negli anni passati proprio l'incapacità di scegliere. Per esempio, non si è mai detto no alle richieste sindacali, non si è riusciti a combattere quella conflittualità che ha pesato fortemente sull'operatività e quindi sull'immagine della società. Voltando pagina, sarebbe bene lasciare alle spalle le rivendicazioni, le polemiche, i contrasti. Ma lo sappiamo, non sarà così. E per la nuova Alitalia già i primi giorni si prospettano difficili, con il risultato di complicare ancora di più il futuro di un'azienda che era già molto complicato. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.